Victoria. Si affacciò alla finestra aperta e tese le orecchie. Silenzio. Niente si muoveva nel bosco oltre i campi. Guardò l'ora. Malte era morto. Doveva essere morto. Per un secondo fu presa dal panico, ma si costrinse a restare lucida. Le polpette erano sul fuoco. L'odore di fritto la riportò alla realtà. Tutto doveva sembrare come al solito. Lasciò la finestra aperta e tornò ai fornelli, scuotendo più volte la padella. Prima o poi sarebbe arrivata la polizia e lei avrebbe dovuto recitare la parte della moglie amorevole e preoccupata. Come reagiva una persona quando le dicevano che il suo amato era morto? Lei avrebbe dovuto saperlo meglio di chiunque altro. Ma non ne aveva idea. Non ricordava niente delle ore dopo l'uccisione di Yuri. Aveva parlato con qualcuno? Aveva pianto, gridato? L'unico ricordo che aveva era l'immagine sfocata di lei che si gettava sul suo corpo esanime. Il sangue che pompava fuori dalle ferite al petto, la testa di Yuri tra le sue mani mentre la vita lo abbandonava. Attorno a lei, la gente gridava terrorizzata, le persone si calpestavano a vicenda per uscire dal locale. Yuri fissava il soffitto, ma lei non se lo ricordava. Quando tolse il coperchio dalla casseruola, il vapore le bruciò il polso. Le patate di Malta erano pronte, anche se non le avrebbe mai mangiate. Lei non aveva fatto niente di male. Era una buona moglie, che aspettava il marito preparando il suo piatto preferito. Un attimo dopo sentì delle sirene e corse di nuovo alla finestra. Il bosco era illuminato da lampeggianti blu.